Inizia ufficialmente la settimana di Radio Città Fujiko dedicata al tema del lavoro e noi della redazione culturale non potevamo che non partire con l'intervistare Eleonora Fossi, una rappresentante dell'associazione Mi Riconosci, sono un professionista dei beni culturali. Movimento nato nel 2015 come campagna sull'accesso alle professioni appunto dei beni culturali e la valorizzazione dei titoli di studio. E io Eleonora ti do il buongiorno e il bentornata ai microfoni di Radio Città Fujiko. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Io, Eleonora, inizierei proprio col chiederti di raccontarci le problematiche connesse al lavoro che citavo anche all'inizio dell'intervista e del motivo per cui poi è nata l'associazione, no? Quindi la precarietà del lavoro all'interno del settore dei beni culturali e soprattutto il ruolo che non viene riconosciuto. Sì, esatto, noi nasciamo nel 2015 come collettivo, poi dal 2019 ci sviluppiamo in associazione. Però prendiamo l'avvio con la legge 110 del 2014, la cosiddetta legge Madia, che ha introdotto sì delle novità per quanto riguarda il riconoscimento di alcune figure professionali, ma mancava di tutta quella parte attuativa e concreta che sarà poi soltanto pubblicata nel 2019. Certo è che comunque sia manca ancora il riconoscimento di alcune figure professionali. Ora ovviamente per me la più vicina è quella dell'educatrice museale, dell'educatore anche museale perché sono laureata in quello, però ecco questa ad esempio è una professione che manca totalmente di riconoscimento, ma anche manca di percorsi formativi univoci in tutta Italia, quindi poi si va a creare quella confusione anche nominativa tra operatore, mediatore, educatore, museale. Insomma, questi sono uno dei temi da cui siamo partiti per poi ampliare tutto il discorso della nostra associazione e riversarci sul settore culturale, che certo è anche dal punto di vista punto lavorativo non è messo benissimo. So che in questo periodo appunto in cui siete anche cresciuti come associazione avete anche realizzato delle inchieste sul lavoro sempre nel settore della cultura durante però la pandemia, che questo insomma è un altro tema caldo di questi anni. Che cosa sì. È emerso da queste vostre inchieste? Allora, noi quasi a cadenza annuale cerchiamo di fare delle inchieste per raccogliere i dati, ovviamente per anche questi dati ci servono per partire, per fare le nostre elaborazioni e le nostre analisi, ma anche per vedere di monitorare la situazione lavorativa. Avevamo fatto un'inchiesta nel 2019 sulle condizioni di lavoro, dove era emersa una grandissima frammentazione sia a livello contrattuale, sia a livello di impiego, e quindi un grandissimo precariato, perché all'interno del settore culturale ci sono tantissimi livelli di inquadramento, anche a livello contrattuale, ma soprattutto abbiamo notato che ad esempio quello più usato è il multiservizi, il contratto dei multiservizi, che non è prettamente per le mansioni nel settore turistico e culturale, ma di solito viene usato per i servizi di pulizia. E ultimamente all'interno del multiservizi la paga oraria sarebbe non più di 8 euro l'ora, e ultimamente abbiamo notato anche che sta andando, passami il termine, un po' di moda anche il contratto con i servizi fiduciari, che arriviamo addirittura a cifre veramente irrisorie, tipo neanche 5 euro l'ora. Quindi siamo partiti un po' da qui, ovviamente non potevano mancare le inchieste durante il Covid, ne abbiamo fatta una nel 2020 e ne abbiamo fatta una l'anno scorso, nel 2021, per vedere l'evoluzione, diciamo così, o l'involuzione anzi meglio, e abbiamo notato che nel 2020 chi ha avuto le maggiori conseguenze sono stati i giovani fra i 30 e i 35 anni all'interno del campione che abbiamo preso in esame, e con conseguenze abbiamo inteso l'interruzione dell'attività lavorativa o l'azzeramento delle entrate. Quindi diciamo che questi ragazzi, questi giovani e questi lavoratori erano in uno stato di assoluta indigenza. Poi nel sondaggio condotto lo scorso 2021 il quadro è ulteriormente peggiorato, perché abbiamo notato che soltanto il 30% ha mantenuto il lavoro il resto della percentuale non l'ha mantenuto o l'ha mantenuto in modo intermittente. Qui ci possiamo rifare sempre alla questione dei contratti, perché anche molte delle mie colleghe e colleghi in realtà si rifanno anche alla partita IVA. Chi ha partita IVA spesso non ha nessuna garanzia e nessuna tutela quando viene a mancare il lavoro. Quindi vediamo che questo in realtà è un settore che è in crisi, ha una crisi strutturale già da decenni. Covid e la pandemia ovviamente sono stati proprio le gocce che hanno fatto decisamente traboccare il vaso. Quindi c'è bisogno proprio di una, non di misure che vadano a tamponare nell'immediato, ma abbiamo bisogno di misure che guardino a lungo termine e quindi vadano a risolvere questi problemi strutturali del settore. Nella scorsa intervista avevamo parlato della vostra proposta del sistema culturale italiano. Ti volevo chiedere a che punto siete, se c'è qualcuno che vi ha ascoltato. Per il momento noi la portiamo sempre avanti, quindi siamo anche disposti ad aggiornarla e a parlarne. Ovviamente è una proposta importante perché riguarda la riforma complessiva del nostro settore. Durante l'inchiesta di cui vi parlavo nel 2021 abbiamo anche notato che nel questionario avevamo posto una domanda riguardo al futuro del settore culturale, come veniva visto, se c'era una possibilità, se c'era delle prospettive migliori, eccetera, oppure se non ne vedevamo alcune. Il 37% delle persone intervistate ha ritenuto che sì, il futuro lo vedeva, ma solo attraverso una riforma strutturale del settore. Questo è uno, diciamo, dei dati più eloquenti da noi raccolti, perché va appunto a sottolineare proprio quello di cui parlavo prima, del problema strutturale del settore culturale. Quindi sì, noi questa proposta l'abbiamo fatta, si può trovare nel libro Oltre la grande bellezza che abbiamo scritto, edito da Deriga Todi, oppure sul sito miriconosci.it. Vuole porsi come riforma anche dal punto di vista propositivo, quindi vuole favorire l'inclusione, il benessere attraverso la diversità del patrimonio che viene raccolto e fruito. Vuole anche dare ad esempio dei suggerimenti, tipo stabilire degli standard minimi, un numero minimo di professionisti con determinate specializzazioni, con determinate condizioni contrattuali, e anche qui noi ci battiamo molto spesso, una regolamentazione del volontariato e del tirocinio, che spesso il Ministero attualmente non sa e non ha idea, ad esempio, di quanti volontari siano impiegati nei luoghi della cultura. Quindi sì, è una proposta che molti ci dicono utopica, però ecco, noi pensiamo che anche partire dalle utopie e cercare di renderle il più concrete possibile sia un passo per cambiare qualcosa. Molto bene, Eleonora, io come sempre ti ringrazio veramente per averci raccontato, svelato, diciamo, no? Anche cose che non si sanno, tutto quello che sta dietro appunto il lavoro all'interno della cultura qua in Italia, e insomma, in bocca al lupo, ecco. Crepi.